Sergio Mori. Eccomi qua, grazie. Mia, a casa mi rimbuggio sulla parada giusta. A chi ne ha regato un paoletta che si giocava nei baixi, e allora ne ha regata lui, alla parada giusta. Ma si fece un bambinaio? Era a casa sua, la chiamato mia nipote a paoletta. Si mi abbaidava un braccio per giovare alla luce, si divide già ma fai sci. Se no, chi tu sa se il treno scende dal carovano. Vabbè. Bah. Grazie, cosa vuoi dire? Oh, ma ne si sta giù per andare a vista, ma... Dove siamo andati, non abbiamo cana, cazzo. Però per la festa in campagna a Banari, tra Coggio, sotto Itiri e Banari, no, fate la festa. A mangiare gran carriera pure, cazzo, all'aperto. Ma è che una via cana andà. Oh, è che una gara, ma chi da stava l'altra strada se si riparavamo in campagna, là la becchina di chi non ha di brutto nessuna là. Ma forse faremo domani a mangiare là, ma non fa niente però, non così tanto per pulire un po', perché soltanto di quelle foglie in mezzo ai piedi lì sulla veranda, per cui a fare una magari a scoppare così già lo posso fare piano piano, che prepariamo la manzana e mangiamo un robarrucco qui, chi è più buona, piace di più domani, dai. Ormai ci faremo piano piano, clicchi a cocco, a chi la giovinto si nata a mare. No, non so se la giovana domani mi farò, sì, non si farò. Farò un'oretta così, ma è scoperto da poco, è più pulito, anzi, tutti si casremo, qui vera le piazzate, lo metto, mi danno tutti fasciati, ma viene sul bozzetto, è andato in tilt, sta di cucciù tutti i giubilento, l'ho messo vicino al carrello, lui la sopra il rovescio, qui vera gli vicino alla mazza. E avevamo tutto ordinato, pulito la mesa, non ha fatto un bel cosa sul carrello. Tre di vanetti, ma vivo, e se la aveva fatto. Un biglietto d'ingresso, se la aveva fatto. L'ho liberato un bel po', e ancora gli abbinati di lampato. Però c'è tutto l'ordine, tutto pulito, rubato, rumatessi, e tutto ordinato. Allora che la giornata di quello di tutti nata al carrello, qui c'è vicino al carrello e sono buttato per rovescio. La gente sono rimasto giù di conosci, se veniva invece fa la moto è fasciata. Beh, la moto è fasciata, come si è fatta a finire? Vabbè, un carrello però. Oh, a proposito un carrellino che va giù. Un carrellino non l'ha giù trattato vivo, è sempre sotto la veranda. Vabbè, si bloccano i rughi, si bloccano i grazie, cosa bisogna fargli? Pure a me me l'aveva fatto. Ha già stato, mi ha divulgato la ruta, ha dimollato lo tamburo ed era tutto arrugginito con un pezzo di carta fine. L'ho fregato, l'ho pulito, no? Senza graffiarlo, il tambù. Ho pulito le ganasce, gli ho passato col dito un filo di olio dentro il tamburo e si è chiuso la piazza, pure ingrassato con il grasso tutto il filo del freno a mano. Tutto rimane, non ha rimbassato il grasso e la cava lo balavo, la cava lo balavo. Sono ingrassato le mollette che ci sono attaccate alla placca del tamburo, no, a parte indietro, dopo tornare il filo indietro. E l'ho tutto ingrassato. E gli ha andati a vedere, vanno il gioco, è tornato in moglie, un annetto, no, forse di me. E poi che andava bene. Così deve fare, prima che va sulla ruota la buiata, chi si girava la ruota e strisciava la cubata, ha già provato prima di farlo, visto, a pulire un bel mese a camminare, un pochettino girava, poi si frenava la sola, la ruota si bloccava, e allora sono tornato in campagna e ho fatto il suo travaglio. E ho chiamato perché avevo visto che si erano bloccate. E siccome sono andato da parecchio, mi sarà il mese di aprile, mi sembra, marzo-aprile, stato imbocciato un carrello in Biero di Sabbia, ma a campagna, e ho visto che avevo frenato proprio, mi deve essere la molla, quella molla che c'è dove attacca il gancio traino, il fuso, no, c'è una molla lì, no? Quando tiri si bloccano un po' le ruote. Deve essere pochissimi sono bloccati, infatti altro, ma io no, che non è che voglio aggracciare dei pochissimi molli, no? Adesso quando mi sento bene faccio quel lavoro, le metto sul coso, no? Due pezzi di legno grande e mi ringrazio tutto quanto e faccio come hai fatto tu a vedere un po' se si sblocca. Io poi sono da parecchio che non lo uso, capito? È sempre fermo lì, per cui l'ho usato poco, il mio è nuovo ancora, però ce l'ho già 7 anni e mi ha usato poco e niente, capito? Io mi raggiro tutti, dice, allora me la faccio un disottante, buoni. Però anche dopo c'è quella molla, dopo hai visto che c'è quel perno che alzi quando fai retromarcia, da me c'è un perno che lo alzi, no? E incrassi la linguetta quando fai la retromarcia, per non girarsi il carrello. Lì c'è quella molla, quel gommone, io quello lì l'ho spostato, la molla sulla faccetta ed era tutto ruggiluggio, l'ho pulito con la carta fine fine, qui c'è i carrozzini, l'ho lavato e poi gli ho messo col dito tutta la vasellina lì, gli ho messo. Lì c'è un pistone, no? E quando cammini e tu freni, il carrello andava avanti e te lo frena, capito, automaticamente. E lì era tutto rugginoso e non tornava ben da letto, rimaneva bloccato. E io ho pensato a quello anche, infatti. Ho pensato a quello, oppure che si bloccavano i cose dei tamburi lì dove c'è quella molla. Ma cosa? Va, appena che mi sento bene, e piano piano pongo una gadria e me le controllo, me ringrazio, me le pulisco e me le ringrazio bene. Capito? Sì che io la faccio con la manutenzione, perché ho visto che sono bloccate. Anzi, l'ho messo sul fuso delle ruote, no? L'ho messo due pezzi di legno e sono levate solo le ruote da terra, capito? Perché sennò si incentrano le gomme, capito? Sono levate da terra le ruote mio. No, io la giubbucci di me si dava a sottare i gomme, basta che ci hanno gomme e non le fa nulla. Ma non è il fatto quello, anche se lo sollevi tu come stai fatto giù, le ruote si inciodano i romantessimi, i ganasci, i rudamburu, con l'intemperie, fa quel velo di ruggine, capì? E ti si in casa e non girarvi poi la molla che c'è attaccata al tamburo dietro nella lamiera dove c'è il filo, quelle si arrugginiscono e non tornano bene indietro, anche quelle devi ingrassare bene, capito? E da poi ti devo fare la mano non muri, ti devo fare la mano non muri, dopo che l'hai giusto ingrassato le poliche a che cosa un poco di bisante, trento, lo fai camminare, comunque cammina e freni, per rifarsi il gioco suo, capito? Forse ci sono rimaste puritane e niccini, hai capito? Se no è inutile, e va pure il suo travaglio, io ho fatto anche quel lavoro lì. Se mi stai dicendo che bisogna fare quel lavoro, lo faccio, sì, te lo credo. Ho fatto sì, perché non lo posso lasciare così, se mi dovessi servire, aspetta, almeno è pronto e è tranquillo, ma se no, ma c'è. Glielo faccio già. E come non lo faccio? Se all'ugriglia. E mi diceva, ma da che dì è il bongomalo, quando mi sento bene, ancora non lo so, ma che cinacchi, che mi ci da voi, voi a Sordoloni. Quando mi sento bene glielo faccio, tanto adesso non lo so usare. Tanto quello lo uso solo io, il carrello, la saiente no? Oh, assolutamente. Ma io prima avevo messo un cartone dritto sotto, però mi ha divisto le mie mani, ha divisato due travestiti di 10 quadrati, anche un metro, li ho messi di dietro laggiù, più dritto, prima un fianco, e anche travagliato in piedi, anche un fritto. E poi ti fatto la razza a bassi, poi mi ho fatto il pisone dove attacchi il gancio, no? Dove c'è quel gommone, lì dentro c'è un pistone che frena la pista. Poi ha già fatto il riccio, l'abbè ha già fatto tutto il riccio, il mio male l'ha già fatto camminare. Bisogna fare quel lavoro, sì, quella manutenzione bisogna fare, proprio così è. Il mollone, c'è lì quel pistone, bisogna ingrassare. E tutto lo faccio, graziato. E tu mi hai detto cosa fare, perché glielo faccio. Sì, per essere sempre in perfetta condizione. Ando a ripigliarlo, non so come a tirare a lungo. È pronto ed è tranquillo. Lo faccio, sai cosa che posso fare quando mi sento bene, per cui me lo faccio piano piano. Sì, qui annaggia, va, graziato. La Puglia, oggi mi sono giustati, piano piano mi sono capitato e me la ci faccio bene. E poi nonostante che io, dove c'è il timone, anche dove c'è il filo che incassa dentro la bobina, lì c'è un violino che era tutto ruggito, quello me l'ho pulito, ho perso il cartavetro, appena più grossa, e poi lì dentro gli ho messo un po' di grasso, perché lei va con i buchi, passano a testa, e io non ho fatto tutto, abbiamo messo un sacchetto di nylon, tutto 30 rottimone, a tappa, però con le temperature, se un po' garruggito, se non mi non lo fate vedere, lo sacchetto, qui ci commuove. Hai capito? Poi perché rimane pure e non è lubrificato. Ecco perché fa così. Allora io l'ho giù tutto ingrassato. Ha giù visto che era nel primo, all'inizio mi faceva la ruta, cic, frusciava. Però poi, a Puglia di usarlo, questo non lo faccio più. Poi ogni tanto li gonfio le gomme anche. E quelli non c'è un problema, ghiaccio il compressore da 100 litri lì, e c'è tutta l'attrezzatura. Sì. No, il mio è sotto la veranda, capito? Ho messo un telone, l'ho messo di quelli, ho preso da lì da dove vendono roba di giardinaggio, ero tutto raggiunto da padre, per cui sotto la veranda acqua non ne ritocca, no. Magari anche se non tocca acqua un po' di condensa lo fa lo stesso, sia il tamburo sia l'altra roba, capisci? Per cui avagando forse su travaglio non muove e non prova ancora, grazie. Mi sembra abbia usato 3-4 volte e basta. Non è nuovo il mio, così che non ho. Si frena la mano, ma è tirato, ti puoi immaginare, però anche quello, quei capi bisogna ingrassare bene. E allora anche quelli devi ingrassare, ma non vuol dire no, anche io non me la via da parte sotto la veranda, il largo, non puoi più vicinare uno a fare, però non mi dice, ma tu sai che non si dice, ma se la vera, Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Ma non mi interessa tanto lo c'è che non si mangia un paese. No, se vai a sardi dobbiamo mangiare, dobbiamo mangiare di latte, però purtroppo. Ah va, che ci sono sotto i bianchi, come che vedi sono bei fondi, sotto i bianchi dell'Atlantico, no? E per cui chi è sempre malata rupa, e questi fondi li ricordo in terra, cosa fa? Non li fai niente, tanto ci può essere sempre i chipi. Infatti che di soliano rimane più sana rupa, invece che si sotto la razza i chipi e rupa non vanta e si ammuffi questa carta, che si ricordo in terra a Romacco poi si passa bene con un molto coltivatore. E allora cosa se non ne fai usare? No, ma io già ce l'ho, mi c'ho il verderrame, solo non gli ha aiutato a chi non aveva gana di farare, e se ne è andata a nuova mano, non me lo... uno, cazzo di uno, cioè lui da qui all'altro, però uno se non ha gana, cosa devi fare? Lo fai usare tu. No, beh, ma non sai che mi dici ne faccio con un cazzo, c'è di libro, sta buva, sei cazzo, da prendere, sta con un po' più loro, e sta giù, perché è un bimbo, non so, si dà, però, da, si dà, si dà, si può chiamare, non è la vita, si dà, si dà, si dà, si dà, si dà, E peggio che si fa la gnameria si mi ripira lì. Oddio quando vivi in Santa Maria un bellissimo stabilimento di col di carina che sono. Chi abbiamo la scorniciatrice noi, no? Stavo ci ha regato un cagno di Daura da Bottodorra, piallacca, insomma, montagne di cose, di segatura, cazzo, c'è un tipo che ritirava, non hai idea, cazzo. E c'era un altro tizio intasato, cazzo, e poi è andato a ritirare due altri tipi, cazzo, si andava da voi per la scorniciatrice e gli sarebbe pa fare i cornici, eccetera, cazzo, e poi è andato a pigliare di qua. Però non ha mai usato questa macchina, vedi? E lui però è andato a ritirarlo senza macchina, gli dico. Oh, chi c'è a me, chi mi parlava queste mascherine di bambino che non servivano a nulla, la poi me l'aveva comprata io e due, buone, con due filtri. Infatti quando me ne sono andato me ne ha detto che andava a pigliare, e si chiedeva per i capelli, l'aveva pagato il burume. No, ma noi erano lì tanto lì tauri in apete, lupi varu di l'apete, era lupi varu di l'MDF, taria nuvole sembrava, e qua c'era polvere, fine. Chi sa che non state una vacca, quando andate a carraccia, chi si avarrò. Infatti, oggi lo cambio per ricciavami le cornice, questa pernice, mamma mia, che bacca le dà, vabbè, gli ha sofferto tutti i travagli, tutti, un vento dell'altro, bacca le dà, ma chissà cosa, ma so, c'era le medicine, sono terribili veramente, infatti, io in campagna, oh, non copio, no, era compagno Calvino, oh, compagno, no, ma bisogna medicare un scienza, che oggi farava Edu, fa farmi la fame, a chi non li voleva fare, però Edu mi portava a palla, a chi dice, se no, in effetti così non ne mangi niente, e aveva ragione. Oh, a me interessa la salute, no, no, qua, a va a portare a modo mio, qua, date di fame, e non ha giudicato medicina della verità. E fino a giustanti a cattacciare, una valanza un 10 o 15 in pulli, di tutti i tipi, perché un bici, visto della mela, visto della ranzio, e per dire un bei medicini, capito? Per cui chi si va a bagno. In mare che si rilampo, cosa ne posso? Tanti, non ne tocco più medicina in campagna mia, assolutamente, non ne tocco più. Si rilampo, signori pappaglieghi, in giro, alla casa del cabare giuri, che io da di Napu, e che dalla mangiare si crepa. Che va via la macchina, quando mi avvocavo, oh, va via lì tutti i segni bianchi intorno ai buchi del naso, intorno alle labbra, poi che va via la macchina, allora mi buia la macchina e più mucarugro, e già mi passava più poco, figura di giù, e va via la macchina con due filtri, e se no intorno a luce, va via tutti i bibicchi sempre bianchi, quando forniciamo le gatti. Travaglio maledetto, ripeto, su tutti i travagli, male, malissimo, la succi, come te chi verniceggia le macchine, no, che se devono fare le macchine, prima magari le macchine venirane, però calcolo che lo conosco è tutto bisettraggio, che è a Trento, bisogna essere riservato a chi uno, se no da voi a una società se ne avvisa uno, era giusto. Così fea la società, hai capito? Ma purtroppo è uno che travaglia sul gesto sempre che ci cose. Tu vuoi non fate niente e moriamo noi buru che ci cose, che cosa vuoi fare? Grazie a me, bisogna che la danza e basta. La frase è che non fate al verniciatore la Paolo Farris. Quando siete su mare, ha cominciato a tossire, a cazzare sangue, si è cominciato a ripilare la lirici, lei fa ancora tempo a cambiare mestiere, a tossire un capo, a tossire e è finito. Infatti non ha fatto bene, ha verniciato le carrozzere, ed era bravo, ma lei ha appiccicato, ha tossicato, ha cazzato sangue. Mamma mia ragazzi, ma carezza, purtroppo ci sono tanti mestieri che sono terribili veramente, sì, no, quale l'attrezzatura d'acqua, come ti fa? Devi travagliare, chi non travaglia non mangia, cazzo va famiglia, magari in chi se lo mettono fa paesà e dove ben stare le conseguenze, capito? Per cui però le cose la buia la stessa dai, ne se la figlio e dopo più tempo di rimediare, capito? Cosa devo fare? Va bene, grazie a Dario. Ti saluto, dai, abbiamo già la mezz'ora, per cui allora mi rilasso un po' carino. Ci sentiamo, saluta Marrosi e ci sentiamo alle prossime, grazie. Ok, mi ha fatto veramente piacere che ti ho sentito e almeno abbiamo passato 10 minuti tranquilli e così via. Io essere clave anche in ascolto, per cui lo saluto se è in ascolto. Ci vedo, grazie, eventualmente a domani se coincida, dai. Ok, ciao, grazie. Ciao Gio Maria, salutami tutto il cuore, alle prossime, saluti anche a Claudio e chi è in ascolto. Ciao, buon proseguimento di serata, ciao ciao. Ok, ciao. Questo microfono sta andando bene, là. facciamo, la facciamo. Andate ancora lì. Io l'iniziativa la prendo, poi non sta a me. Io non ho detto mai che stava facendo altra roba, quindi non so cosa dirti. Io tanto in salina per farla a lui. Io non ci vedo, non te ne posso fare, non ha fatto lui a me. Avrà voluto aspettare, quindi non so cosa dirti, neanche la qua. Non si sa neanche come, io gli ho messo il poggiorno a letto, non sta bene. E se lui ci mette che c'è tutta la strumentazione, dai, in un quarto d'ora non farmi, non per altro. Thank you. però già ecco niente, no, io ho sentito che tu, però non ho rilasciato e non ho ripreso tutto qua e basta. No, stavo parlando della mia radio, capito, oh, già, non so se hai ascoltato il discorso, io sono un agliaiso, capito, e mi serviva l'adattatore, tutto qua. Allora mettere in acqua, così poi dritta. Va bene. Ok, avanti. rimanere qua a gemere la mitta, non c'è nessun problema. Noi aspettiamo a tutti, non siamo a circuito chiuso, i canali di tutti e tutti possono parlare. Avanti Massimiliano. Non c'è problema per quello, ci mancherebbe altro. Io domani mattina farò direzione a Ottava, ci prendiamo il caffè con Gigi, se c'è. E niente, ci passiamo un paio d'ore a farci una chiacchierata, tutto qua. E niente, quindi claro, per quel microfono, se non c'ha lui lo spinottino Iaiso, gli fai mettere quello del microfono normale. E boh, e si chiude tutto lì. Secondo me mi chiama la mia moglie, riprendi Gianni. nessuno, è tutto tranquillo. Poi se dalle parti tue a me mi stanno sovrammodando, questo non lo so. Però siccome io so da dove parli, so dove abiti, quindi arrivare con questo segnale da me a casa mia stai arrivando alla grande, capito? Però ti voglio dire una cosa, anche se sei in qualsiasi locale, perché capita spesso anche a me che sono in qualsiasi locale con un baracchino, come tu ben sai, quando c'è gente di fuori non faccio altro che aumentare un pelino e farmi sentire anche dagli altri. Perché a volte io sento solo a Nino parlare e a te ti sento basso, basso, basso, basso. Io capisco che da Nino arrivi fortissimo perché ce l'hai davanti, però non, io questi problemi non ce l'ho, perché Nino mi ascolta anche con 4 watt, non ci sono problemi. Però dico, fatti sentire anche qua a Sassari, non è un problema. Io te l'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo sempre. Tutto quello che dicono gli altri, tutto quello che fanno gli altri a me, da un periodo a questa parte, non mi interessa più, perché non me ne frega più niente. Perché come te e come tanti altri sono stato sempre messo in mezzo, cercato e fatto in cose che io non ho mai assolutamente detto, né detto né fatto, per capirci. Quindi tu dico per esperienza, perché sono più grande di te, ho più esperienza in radio, te l'ho già detto in persona. A tutti dimmi, punto, quello che dicono, lasciali dire. Attenzione canale 10, per cortesia, emergenza. C'è qualcuno in frequenza? Vabbè, c'è il canale 10 qui. Froci, non mi disiti.